Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Torniamo a salire sulle vette più alte della Terra, sugli 8000. Questa sera a Olimpia, la città dello sport, lo sapete, la passione per l'alpinismo c'è sempre stata e trova sempre spazio tra le vie della città dello sport, e quindi davvero una puntata particolare quella di oggi di Olimpia. Sempre qui a fianco a me Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Ben ritrovato, professor Tirelli. Grazie Dario e un ben ritrovato a tutti i radioascoltatori. E ritroviamo insieme, professore, un grande amico nostro personale, ma anche di Olimpia, che quegli 8000 li conosce bene, direi più che bene. Daniele Nardi, bentornato a Olimpia, la città dello sport. Grazie Dario e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Daniele, beh, ricordami un po', perché ogni tanto me le perdo, perché tu ne sali parecchi. Quanti 8000 hai fatto in carriera? Beh, ho scalato 5 montagne di 8000 metri, però la cosa che mi piace più mettere in evidenza è che non l'ho voluto solo scalare, ma ho cercato anche di farli in velocità quando ho concatenato 2 8000 nella stessa stagione e poi un 1 8000 che ho salito in 20 ore dal campo base. Beh, insomma, cioè, sei anche un piede veloce, diciamo così, ecco, a quelle altezze. Intanto grazie per essere tornato a trovarci, parleremo anche dei tuoi progetti futuri, non solo di quello che hai fatto finora. Ricordiamo, gli ultimi 4 inverni l'abbiamo seguito da vicinissimo sulle pendici del Nanga Parbat, poi conquistato da Simone Moro con altri compagni di viaggio in una spedizione complessa, contrastata, discussa, ma oggi parliamo di altre cose. Professor Tirelli, beh, un atleta di primo livello, così averlo a fianco è sempre una grande occasione. Immagino anche dal punto di vista mentale l'alpinismo stuzzichi parecchio la sua curiosità. Beh, basti pensare che chi entra nel mio studio vede una cosa, c'è su una parete degli omini, sono appiccicati alla parete, sono legati gli uni agli altri da delle corde, proprio perché la cordata è la simbologia per eccellenza di tutto ciò che riguarda il team working, la affidabilità dell'uno dell'altro, e anche quando siamo in solitaria in realtà noi ci aggrappiamo, ci afferriamo a dei concetti, se vogliamo a volte immaginari, di obiettivi. Lo scalatore vede già per sua natura, obiettivo dopo obiettivo, quello che altri non vedono, traccia le vie, cosa che altri non vedono. Quindi la simbologia dello scalare le montagne è secondo me quella migliore per capire che la nostra forza mentale può essere lungimirante e realizzare obiettivi che per molti apparirebbero assolutamente impensabili e irrealizzabili. Ecco Daniele, tu curi in particolare la tua preparazione mentale, sei affiancato da qualcuno oppure hai un pure efficace che fai da te? Beh, io faccio attualmente da me, nel senso che conosco alcune tecniche per potermi focalizzare sui miei obiettivi, e uno dei punti cardini è capire esattamente il motivo per il quale tu scali una montagna e capirne anche l'etica, i valori che tu ti porti dietro. Come dicevano molti alpinisti, tra cui Lavanda Rukjevic o lo stesso Walter Bonatti, una montagna sarebbe nulla se dietro non ci fosse uno spirito di scalata, un'etica di scalata, rimarrebbero veramente un cumulo di sassi. Non è la vetta in sé da scalare che realizza il grande obiettivo, ma è il modo con il quale tu la scali. Questo fa una reale e consistente differenza se uno vede l'alpinismo da un punto di vista molto professionale e dentro l'ambiente. Professor Tirelli, glielo consegno, domande al nostro alpinista per entrare un pochino nella sua mente, perché gli alpinisti una ne fanno e 100 ne pensano, vediamo di capirne almeno una 90. Ma generalmente il concetto di forza mentale è associato a una percezione interiore di desiderio reale di voler fare qualcosa. Quindi quello che ti chiedo è, questo sentire interiore di voler scalare le montagne, di andare verso l'alto, da quando l'hai percepito? Allora, io rispondo sempre che sin da quando sono bambino io ho avuto una grande tendenza alla curiosità, quindi capire come sono fatte le cose, cosa c'è al di là di un muro, andare a cercare la conoscenza che potesse servirmi per realizzare qualcosa nella vita. Questo è stato un punto fondamentale. Quando ho cominciato a scoprire che ero bravino a scalare le pareti, che andare sulle montagne voleva dire per me trovare un senso di libertà che altrimenti facevo fatica a trovare, allora a quel punto sono partito e ho cominciato proprio a trovare questo grande piacere per la scalata. Sicuramente uno dei momenti proprio precisi che ricordo è stato quando vidi il film di Ardito Desio della spedizione del 54, quando vidi due uomini salire in vetta sul K2, anche se poi è chiaro che io sono un fautore di Walter Bonatti, no? Del suo stile, del suo modo di andare in montagna e quindi tutto quello che ne conseguì da quella spedizione. Però quelle immagini, quel gruppo di spedizione che vide arrivare due uomini in vetta, ma che aveva spinto con una squadra straordinaria dalla base verso l'alto, quegli uomini che alla fine si presero un po' l'onore della scalata, ma che in realtà erano stati supportati da un grande team, quello mi ha fatto scattare la molla e ho detto: caspita, quella montagna io voglio scalarla. E poi a distanza di qualche anno mi sono allenato, preparato e l'ho fatto. Credo che l'istinto dell'alpinista sia individualista, no? Professore, ne abbiamo parlato tante volte, l'atleta di alto livello pensa di per sé, è animato da un feroce, spesso seppur sano, egoismo. Ecco, Daniele Nardi, ci si può educare in montagna a quel concetto di cordata che prima ricordava il professor Tirelli, e quanto è faticoso pensare per un gruppo e esserne magari anche il leader? Con la scalata si può allenare benissimo a creare il team working o costruire un team, oppure riuscire a capire come rispettare gli altri o addirittura sviluppare la leadership. Io in questi ultimi anni tanto sono appassionato di formazione e chiaramente di climbing, che ho proprio realizzato un mio laboratorio in parete che permette di sviluppare queste attività. Proprio ultimamente ne ho fatto uno su Milano, dove una nota azienda italiana è venuta a sperimentare ciò che può imparare attraverso l'arrampicata. L'unica differenza che c'è è che bisogna fare attenzione che quando si fa questa attività mettendo il focus su aspetti che sono di lavoro in team, non si può fare l'arrampicata intesa come imparare a scalare. Bisogna metterci dietro dei concetti formativi come proprio il lavoro in squadra per poterli poi sperimentare sulla parete, altrimenti diventerebbe un semplice corso d'arrampicata, che è bellissimo, che andrebbe fatto, ma non raggiungerebbe l'obiettivo. Uno degli esercizi più belli, che qui mi confesso in realtà, è quello che io chiamo l'arrampicata bendata. Io faccio scalare dopo una fase di riscaldamento delle persone con una benda, e in modo tale che chi è in coppia possa guidare la persona che scala. Adesso non svelo di più, ma in realtà questo è un esercizio straordinario che migliora tantissimo la comunicazione efficace tra le persone e soprattutto quel legame di corda che permette a uno di fidarsi della persona che è giù mentre scala, e allo stesso tempo l'altra persona impara a guidare la persona che sta scalando. Ma oltretutto migliora anche l'aspetto propriocettivo, perché per chi non vede è obbligato ad aumentare la sensibilità a livello neuromotorio, quindi si amplificano quelle che sono le percezioni specifiche del mio corpo in relazione all'ambiente. Quindi mi sembra una cosa molto, anzi, assai bella. Io ho ottenuto dei risultati eccezionali su questo campo. Ho verificato anche proprio usando una tecnica specifica, sia nella comunicazione ma che nella realizzazione dell'esercizio, ho avuto risultati di persone che addirittura hanno ridotto drasticamente le loro vertigini, oppure alcuni stati d'ansia, o addirittura hanno scoperto che si può fare in modo di lasciarsi guidare nella vita, e non soltanto magari di guidare, perché la leadership ha queste due componenti. Da una parte c'è la componente di riuscire a dare dei comandi, no? Fare in modo che le persone eseguano delle cose, ma allo stesso tempo per la vita bisogna essere anche in grado di lasciarsi guidare, quindi a volte fidarsi degli altri, e questo è un aspetto che spesso viene sottovalutato, ma in realtà ha una grandissima importanza. Professor Tirelli, lei ha mai lavorato con un alpinista? Allora, svelo un segreto. Ne stavo parlando proprio con Daniele adesso. è vero, confermo. È vero, no, quindi... io ho una grande passione per la montagna, perché sento nella montagna qualcosa di spirituale. E devo dire che ho provato da solo, ma sono nel basico più basico, quindi mi sento un ignorante della montagna. E allora siamo in due. Devo dire che però una bella esperienza di coppia in questo senso sarebbe molto molto bella da farsi nel futuro. Beh, allora vi immagino presto nello stesso campo base, io vi telefonerò al massimo sul satellitare. Intanto prendiamoci una pausa qui a Olimpia e poi ci ritroviamo fra pochissimo con Stefano Tirelli e con Daniele Nardi. Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Di nuovo insieme qui a Olimpia, la città dello sport, oggi ci è venuto a trovare in studio professor Tirelli, mio compagno di viaggio quest'anno a Olimpia, davvero un ospite, ma direi un amico davvero particolare. Torniamo a parlare degli 8000 della Terra, le grandi montagne, il tetto del mondo, e in qualche modo, non solo fisicamente ma anche in spirito, cerchiamo di avvicinarci a queste vette con la guida sicura di Daniele Nardi. Ben ritrovato Daniele qui a Olimpia. Grazie Dario. Allora, stavamo parlando un po' di come tu affronti mentalmente, no, queste sfide, e di quanto la montagna possa essere palestra, anche e soprattutto a livello mentale. Ti dico, quando tu ti trovi di fronte queste pareti sconfinate da scalare, spesso con piccozza e con margini di sicurezza per te ampi, per noi risibili, tu come suddividi quell'impegno? Perché immaginarsi un chilometro di parete da scalare penso possa anche spaventare anche uno come te, no? Forse se ti immagini 10 volte 100 metri è un po' più facile. No, sicuramente dividere una parete per step, come dico sempre, no? Passo dopo passo, quello è fondamentale. Ma cosa vuol dire dividere? Dividere vuol dire studiare la parete, vuol dire riuscire a individuare quali sono i punti su cui poter magari riposare, quindi piazzare una tenda, e questo fare in modo che venga preparato un lavoro di base che ci permetterà poi di fare il salto in vetta. Però la cosa più importante per me è un altro aspetto, che è legato in realtà a due sottoaspetti, che sono da una parte l'allenamento. Se uno più è preparato, più è allenato, e meno la fatica, diciamo, incide sul fatto mentale anche, perché è inutile a dirsi, se noi siamo stanchi in qualche modo veniamo bloccati nella nostra azione, abbiamo più paura perché sappiamo che magari, detta proprio così semplicemente, il polpaccio fa male, oppure il bicipite quando si scala. L'altro aspetto invece a cui io tengo particolarmente è quello di allenare una capacità di oggettività nello studio delle cose, che va al di là delle sensazioni che subentrano e ti fanno sentire o vedere delle cose che in realtà non ci sono. Quindi riuscire ad essere oggettivo nella valutazione sia di te stesso, proprio come ti senti fisicamente, ma anche di com'è la montagna, ti permette, uno, di evitare i pericoli, perché tu riesci realmente a vedere ciò che può essere un crepaccio, un seracco, oppure com'è la conformazione della parete. E allo stesso tempo, quando hai quella sensazione di sforzo, se riesci a oggettivizzarla, forse scopri che in realtà hai tanto carburante in più e quindi puoi continuare ad andare avanti. Professor Tirelli, per un atleta così particolare come può essere un alpinista o un ottomillista come può essere Daniele Nardi, quali sono gli accorgimenti anche fisici specifici da adottare proprio per fare i primi passi per una preparazione fisica ad hoc? E giustamente, come diceva Daniele, la parte di preparazione atletica è fondamentale, quindi gli esercizi principali sono quelli in isometria, quindi con sforzo prolungato di muscoli che vanno a reclutare fibre profonde. Generalmente quando noi ci muoviamo in velocità reclutiamo maggiormente le fibre superficiali. Assieme a queste, in contrazioni di 6-10 secondi prolungate, lo stimolo va a reclutare anche quelle che vengono dette mute, perché di solito non intervengono, e che vanno a potenziare al meglio tutto l'insieme delle catene cinetiche muscolari. Ci sono gruppi muscolari che sappiamo essere predominanti, degli arti inferiori a livello del dorsale, del gran dorsale, a livello di tutti i paravertebrali, degli arti inferiori, e come diceva appunto Daniele, la preparazione mentale in questo caso è in sintonia totale, perché maggiore è la confidenza che io ho rispetto allo strumento corpo, meno ansie io posso avere in termini di paure future che potrei incorrere appunto durante una scalata, potrei ricevere e sentire durante una scalata. D'altra parte, la parte fisica e la parte mentale in realtà sono un'unica cosa. Quanto più io riesco ad allenare anche la mente, tanto più riesco a migliorare la prestazione fisica. L'una e l'altra sono assolutamente in sintonia. Tra l'altro ci ha sempre spesso detto Daniele, nelle occasioni in cui è venuto a trovarci, professore, che anche un'altra grande nemica in montagna è spesso la noia, perché ti ritrovi in giornate in cui il meteo ti impedisce di fare chissà che. Ecco, professore, a parte le parole crociate, qualche suggerimento per il nostro amico? Bene, l'ascolto eccessivo di se stessi, la voce interiore è una cosa bella, quando però introiettiamo troppo nel nostro pensiero il sentire proprio della fisicità può diventare in quel caso un limite. Quello che io suggerisco spesso è di godere, amare di tutto ciò che si ha intorno. La montagna, così come gli ambienti in generale della natura, ci offre degli spettacoli di colori, di sensazioni, di percezioni olfattive, di percezioni addirittura loro hanno la fortuna a volte di incorrere anche in piccoli amici, animali che nella scalata si possono trovare che altri non vedono. Ma mi ricordo una volta che una volpe, ma a che altezza ti era entrata in tenda, ti aveva rubato anche del cibo? Ma altezza di 4-5 mila metri, possibile? Beh, sì, eravamo intorno ai 4.800 metri al campo 1 del Nanga Parbat in pieno inverno. Ero solo perché quella volta stavo affrontando il Nanga Parbat in completa solitudine, finché a un certo punto entro in tenda e queste 11 barrette che avevano una busta di plastica erano totalmente scomparse. Siccome è la domanda che mi facevo, dico, ma sono impazzito io che l'ho portate oppure è venuto lo Yeti e me l'ha rubate? E guardando fuori dalla tenda a un certo punto vedo queste tracce che vanno verso la montagna e quindi avevo capito che qualcuno si era inserito al posto mio. Quindi meglio una barretta oggi che un uovo domani, questa è la morale di questa cosa. No, per cui diciamo che l'integrazione tra me e l'ambiente porta ad uno stato di flow, come si suol dire. Il flow è quella condizione nella quale gli stimoli sensoriali esterocettivi, in qualche modo fuori dalla percezione del nostro corpo, diventano relativi, quindi sento molto meno la fatica, ho una sorta di catarsi della stessa prestazione in un ambito che può sfiorare nel limite dello spirituale. Daniele, un altro grande nemico, banale dirlo, è il freddo. Ogni volta che torni ti chiedo un po' se ci sono dei nuovi ritrovati, a che punto è anche la tecnologia per garantirvi la migliore performance possibile a temperature che arrivano a meno 30, meno 40, anche più in basso. A che punto siamo? C'è stato qualche miglioramento oppure dobbiamo fare il berrettino di lana? Il professor Tirelli deve preparare l'uncinetto. Già fatto. La maglia di lana della nonna è sempre la migliore secondo me, però a parte queste battute, diciamo che la tecnologia ha permesso da anni, diciamo, a noi alpinisti di poter, o esploratori anche, di poter entrare nel freddo in maniera più veloce, più d'impatto, altrimenti le imprese che oggi andiamo a cercare di fare non sarebbero realizzabili. Questo mio grande sogno di scalare una via nuova in pieno inverno, che è una cosa che sostanzialmente fu fatta solo nel 1985 dalla squadra dei polacchi, oggi è un po' più pensabile proprio perché la tecnologia ci aiuta già dagli anni 80. Però ecco, se parliamo proprio di freddo, dei ritrovati che possono cambiare del tutto la condizione non esistono. Esistono dei buoni guanti, dei guanti che quando si bagnano traspirano meglio e quindi anche le attrezzature che vestiamo, però dei risultati straordinari che possono veramente totalmente cambiare la situazione non esistono. L'unico accorgimento che ultimamente qualcuno usa, che io però non mi trovo per una paura intrinseca al fatto, è di utilizzare delle batterie con dei calzini riscaldabili, con delle resistenze elettriche che permettono di aggiungere calore, diciamo, soprattutto ai piedi, che sono quelli veramente più difficili da scaldare. Quindi lo scaldasonno praticamente. È una sorta di scaldasonno solo messo dentro gli scarponi. Questo però a volte ha grosse controindicazioni. Però in questo senso, per esempio, il lavoro che faccio da tanto tempo è anche la ricerca di quelli che possono essere aspetti tecnici ad integrare quella che è la capacità mentale, energetica e fisica. Noi stiamo lavorando tanto, per esempio, con l'utilizzo della riflettenza degli infrarossi. E quindi abbiamo codificato, realizzato dei materiali che sono in questo senso molto molto utili per ritrovare e riprendere quelle onde infrarosse che noi andremo a disperdere e che invece aumentano il microcircolo sanguigno. Per cui in realtà tutto è in evoluzione. La cosa molto bella è che mettiamo tutti a disposizione la propria conoscenza al fine di arricchirci tutti quanti. No, no, ma avevo visto giusto, io vi vedo proprio bene a voi due al campo base del Nanga Parbat e io qua al calduccio a intervistarvi al telefono. Beh, staremo a vedere. Intanto abbiamo veramente ancora pochi secondi, però Daniele, uno sguardo sul futuro, i tuoi prossimi progetti. I miei prossimi progetti, come sto cominciando a dire, è quello di tornare nuovamente al Nanga Parbat in pieno inverno nel 2018-2019, perché il mio grande sogno è risalire quello sperone che ancora non è mai stato scalato da nessuno e poi nei prossimi mesi invece un progetto sull'Appennino, scalare tutte e quattro le grandi pareti nord dell'Appennino in pieno inverno, alcune da sole, alcune in compagnia, per far sì che lo sport dell'alpinismo possa far conoscere quelle terre dove c'è stato il terremoto e riattivare il turismo in quei luoghi per quello che può fare l'alpinismo. Per cui il mio sostegno alle mie genti, ai miei popoli tra Lazio e Abruzzo, veramente è la mia terra che amo e che saluto, sperando che questi progetti possano veramente portare un po' di beneficio alle attività locali. Professor Tirelli, mi sa che prima o poi ce lo ritroviamo a Olimpia questo, eh? Sì, sì, sì, è già pronto lui, eh? Anzi, può insegnarmi tante cose. E lei a lui. Allora, io ringrazio entrambi, Stefano Tirelli, mio compagno di viaggio quest'anno qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie tantissime, sempre grande energia per tutti. E un grande in bocca al lupo anche a Daniele Nardi per le sue prossime vette e le sue prossime esplorazioni e avventure. Grazie, a presto. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.